Capitolo 27. Non so quanto tempo fosse trascorso quando rialzai il capo e mi guardai attorno, ma dalla luce radente che il sole gettava sulle pareti mi resi conto che il tramonto era vicino e mi domandai che debbo fare. La risposta che diede la mia mente, lascia subito Thornfield, fu così pronta, risoluta e terribile che mi chiusi le orecchie e mi dissi che ancora non potevo sopportare simili parole. Non poter essere la moglie di Edward Rochester è il minore dei miei dolori, aggiunsi. Essermi svegliata dal sogno più radioso per non trovarmi intorno che solitudine e tristezza è un orrore che posso ancora sopportare, ma doverlo lasciare risolutamente, subito e per sempre, è intollerabile, non posso. Ma allora una voce dentro di me mi ammonì che lo potevo e predisse che l'avrei fatto. Lottavo contro la mia risoluzione, avrei voluto essere debole per evitare le nuove sofferenze che vedevo sulla mia strada. La coscienza diventata tirannica, afferrando la passione per la gola, le disse severamente che se per ora io avevo posato soltanto un piede nel fango, un braccio di ferro mi avrebbe presto precipitata in un insondabile abisso di dolori. Strappatemi via di qui allora, gridai, ma aiutatemi. No, ti ci strapperai da te e nessuno ti aiuterà. Devi cavarti da sola l'occhio destro, tagliarti da sola la mano destra. Il tuo cuore sarà la vittima e tu il carnefice che lo trafigge. Balzai in piedi, atterrita dal giudice spietato che abitava la mia solitudine, dalla voce tremenda che riempiva il silenzio intorno a me. La testa mi girava, ora che ero in piedi, e mi accorsi che stavo per svenire dalla debolezza e dallo sgomento. Le mie labbra non avevano più toccato cibo né acqua dal mattino e con una strana fitta al cuore mi resi conto che da quando mi ero chiusa in camera nessuno era stato mandato a prendere mie notizie o a invitarmi a scendere. Nemmeno la piccola Dell aveva bussato alla porta, nemmeno la signora Fairfax mi aveva cercata. Gli amici ci abbandonano sempre nella disgrazia, mi dissi, togliendo il chiavistello per uscire dalla camera. Sulla soglia urtai contro un ostacolo. La testa mi girava ancora, la mia vista era confusa e non avevo forze, per cui non mi riebbi subito. Fui lì lì per cadere, ma un braccio steso mi sostenne. Alzai gli occhi e vidi il signor Rochester seduto davanti alla porta di camera mia. «Esce finalmente!» mi disse. «È tanto che aspettavo ed ascoltavo, ma non ho udito né un movimento né un singhiozzo». Ancora 5 minuti di quel silenzio di tomba e avrei forzato la porta come un ladro. Così mi evita. Si è chiusa dentro per piangere da sola. Avrei preferito che mi coprisse di accuse e di rimproveri veementi. Ha un temperamento appassionato e mi aspettavo una scena, una qualsiasi scena. Ero preparato a lacrime cocenti, ma desideravo soltanto che fossero versate sul mio petto. Invece, un insensibile impiantito le ha bevute, oppure il suo fazzoletto. Ma sbaglio. Lei non ha pianto affatto. È pallida in viso e ha gli occhi spenti, ma non vedo tracce di lacrime. Forse il suo cuore ha sparso lacrime di sangue. Su via, Jane, neppure una parola di rimprovero, nulla di amaro, nulla di pungente, nulla che ferisca il sentimento e ecciti la passione. Se ne sta quieta là dove io l'ho messa e mi fissa con lo sguardo stanco e passivo. Jane, io non ho mai voluto farla soffrire. Se un uomo avesse un'agnellina a cui volesse bene come una figlia, un'agnellina che mangiasse il suo pane, bevesse dalla sua tazza e riposasse sul suo petto e poi per errore la portasse al macello, non si dorrebbe di quello sbaglio sanguinoso quanto io mi dolgo e mi pento per il mio. Mi perdonerà mai. Lettrice, gli perdonai subito e sul posto. Vi era un rimorso così profondo nei suoi occhi, un'afflizione così sincera nella sua voce, una energia così virile nei suoi modi, e inoltre un amore sì grande e inalterato nella sua espressione che gli perdonai tutto. Non a parole, non esteriormente, soltanto nel fondo del mio cuore. Ora sa che sono un miserabile, Jane, non è vero? Mi chiese guardandomi attentamente. Meravigliato forse del mio prolungato silenzio e del mio atteggiamento, risultato più della mia debolezza che della mia volontà. Sì, signore. E allora me lo dica, chiaro e tondo, non mi risparmi. Non posso, sono stanca e non mi sento bene, vorrei un po' d'acqua. Egli diede in una sommessa e spaventata esclamazione e sollevandomi tra le braccia mi portò al piano terreno. Sulle prime non capii in quale stanza mi avesse portata, tutto appariva scuro ed annebbiato davanti ai miei occhi, ma presto avvertii il benefico calore del fuoco, che a poco mi vivificò, perché sebbene fosse estate, in camera mia ero diventata fredda come il ghiaccio. Egli mi accostò alle labbra un bicchiere di vino. Lo bevetti e mi sentii rianimare. Poi mangiai qualche cosa che mi aveva offerto e mi riebbi del tutto. Mi trovavo in biblioteca, seduta nella sua poltrona, ed egli mi era accanto. Potessi morire ora, senza sofferenze troppo crudeli, sarebbe meglio per me, pensai, perché non sarei costretta a fare lo sforzo che mi spezzerà il cuore di staccarmi dal signor Rochester. Devo lasciarlo, ma non voglio, non posso. Come si sente ora, Jane? Molto meglio, signore. Tra poco starò bene, del tutto. Beva ancora un po' di vino, Jane. Ubbidì. Poi egli posò il bicchiere sul tavolo, mi venne di fronte e mi guardò attentamente, ma quasi subito volse il viso gettando un'esclamazione inarticolata, come sopraffatto da un sentimento troppo appassionato. Percorse nervosamente la stanza, poi ritornò e fermandosi di nuovo davanti a me si chinò come per baciarmi, ma ricordando che ora le sue carezze mi erano proibite, distolsi il mio viso e allontanai il suo. «Come? Perché?» esclamò egli in fretta. «Oh, capisco, non vuole baciare il marito di Berta Mason. Crede che le mie braccia non siano vuote, che le mie carezze spettino ad un'altra. In ogni modo, signore, non c'è posto per me e me ne manca anche il diritto». Perché, Jane? Le risparmierò la fatica di parlare e risponderò per lei, perché ha già moglie, mi risponderebbe, non è vero? Sì. Se pensa così, deve avere di me una strana opinione. Deve considerarmi un indegno libertino, un uomo vile, spregevole, che ha simulato un amore disinteressato e sincero per attirarla in un tranello da tempo preparato e spogliarla del suo onore e del rispetto di se stessa. Che cosa risponde a questo? Vedo che non può dir nulla. In primo luogo è ancora debole e respira fatica, poi non sa assuefarsi all'idea di accusarmi e di avvilirmi, e inoltre la sorgente delle lacrime si è aperta, e se lei parlasse troppo sgorgherebbero abbondanti. Ma lei non vuole agitarsi né rimproverarmi, si sta chiedendo come deve agire e trova inutile parlare, la conosco e sto in guardia. Signore, non intendo far nulla che le possa nuocere, risposi, e la mia voce tremante mi avvertì che era bene non aggiungere altro. Non nel senso che attribuisce a queste parole, ma in quello che io gli attribuisco. Lei progetta di annientarmi. È lo stesso che se mi avesse detto che, essendo io un uomo ammogliato, lei mi eviterà, si allontanerà da me. Poco fa mi ha ricusato un bacio, vuole diventarmi completamente estranea, vivere sotto questo tetto unicamente come l'istitutrice di Adele. Se appena le rivolgessi una parola affettuosa, se mai un sentimento di amicizia la spingesse verso di me, subito si direbbe: quest'uomo è stato sul punto di far di me la sua amante. Bisogna che sia di ghiaccio o di pietra di fronte a lui. E di ghiaccio o di pietra lo diventerà davvero. Mi schiarii e rafforzai la voce prima di rispondere. Tutto è cambiato per me, signore, dissi, e anche io devo cambiare, non c'è dubbio. Per evitare sorprese nei miei sentimenti. È una continua lotta contro i ricordi e i pensieri. Non c'è che un modo, signore. Adele deve avere una nuova istitutrice. Oh, Adele andrà in collegio, è una cosa già stabilita, né io intendo vederla tormentata, Jane, dagli odiosi ricordi e dai pensieri che suscita in lei Thornfield Hall, questo luogo maledetto, questa tenda di acabbo, questo sepolcro insolente che mostra alla luce del cielo l'orrendo spettacolo di una morta viva, questo piccolo inferno di pietra, abitato da un solo essere diabolico, ma più temibile, di una legione di demoni. Jane, lei non rimarrà qui, e nemmeno io. Ho già commesso un errore a farla venire a Thornfield, sapendo da chi era abitata questa casa. Prima ancora di vederla, Jane, avevo dato ordine che le celassero ciò che si raccontava su questo luogo maledetto, soltanto perché temevo che nessuna istitutrice sarebbe mai rimasta presso Adele, sapendo che abitava sotto lo stesso tetto. I miei progetti d'altronde non mi consentivano di trasferire altrove la pazza, sebbene io possegga un'altra casa, il castello di Fendin, più ritirato e più nascosto di questa, dove avrei potuto rinchiuderla con sufficiente sicurezza. Ma il pensiero della scarsa salubrità del luogo, rinserrato in mezzo a boschi umidi, ha indotto la mia coscienza a rinunciare a quel ritiro. Probabilmente l'umidità della casa mi avrebbe presto liberato dal peso di lei, ma ogni malfattore ha le sue tendenze, la mia non è quella di assassinare indirettamente nemmeno chi odio di più sulla terra. Non di meno. Tenere celata a lei, Jane, la vicinanza di una pazza era lo stesso che coprire un bambino con un mantello e metterlo accanto a un albero di upas. La vicinanza di quell'albero demoniaco è velenosa. Ma chiuderò Thornfield, inchiuderò la porta, munirò di punte aguzze i cancelli, spangherò le finestre più basse, Darò 200 sterline l'anno a Grace Poole perché resti qui con mia moglie, come lei chiama quella furia. Grace fa qualunque cosa per amore del denaro e io chiamerò qui anche suo figlio, il custode del ritiro di Grimsby, perché le faccia compagnia e le sia di aiuto nei momenti pericolosi. Quando mia moglie è incitata dai suoi spiriti familiari a bruciare le persone nel proprio letto di notte, a pugnalarle, a sbranarle e così di seguito. Signore, lo interruppi. Lei è inesorabile verso quella povera infelice, ne parla con odio, con vendicativa antipatia e una crudeltà, perché ella non è responsabile della sua pazzia. Jane, mia piccola cara, così voglio chiamarla perché così è. Lei non sa quel che si dice, mi giudica ancora male, non odio quella donna perché è pazza. Se lo fosse lei, Jane, crede che la odierei? Lo credo, signore. Allora sbaglia e non mi conosce, non solo, ma non sa nemmeno di quale amore io sia capace. Ogni atomo della sua carne mi è caro come la mia propria. L'amerei malata, l'amerei infelice. Il suo animo è il mio tesoro e anche se si smarrisse continuerebbe ad esserlo. Se delirasse, le mie braccia la tratterrebbero e non una camicia di forza. Una sua stretta, anche se inconsapevole e feroce, mi alletterebbe e anche se lei mi si avventasse addosso furibonda come ha fatto stamane quella donna, l'accoglierei con un abbraccio energico, sì, ma non meno tenero. Non indietreggerei con disgusto vedendola come ho fatto in quella stanza lassù e quando fosse calma non avrebbe altro guardiano, altra infermiera che me. Saprei vegliarla con infinita tenerezza, anche se lei non potesse ricompensarmi con nessun sorriso. E non mi stancherei di guardarla negli occhi, anche se più non mi riconoscessero. Ma perché parlo di questo? Dicevo che la farò partire da Thornfield. Tutto è pronto, lo sa, per una rapida partenza. E domani lei lascerà questo luogo. Le chiedo soltanto di sopportare ancora una notte sotto questo tetto, Jane, e poi addio, per sempre alle sue miserie e ai suoi terrori. Ho un luogo dove rifugiarmi, che sarà un asilo sicuro contro i ricordi odiosi, contro le intrusioni sgradite, persino contro la menzogna e la calunnia. Conduca Adele con sé, signore, dissi, le terrà compagnia. Che cosa intende dire, Jane? Le ho spiegato che Adele andrà in collegio, che bisogno ho di una bambina per farmi compagnia, di una bambina che non è mia figlia, ma la bastarda di una ballerina francese. Perché mi importuna con lei? Dico, perché vuol darmi Adele per compagna? Parlava di un ritiro, signore, e il ritiro e la solitudine sono tristi, troppo tristi per lei. Solitudine, solitudine, ripetei irritato. Vedo che bisogna spiegarsi. E che significa quell'espressione di sfinge che si è dipinta sul suo volto? Lei dividerà la mia solitudine, capisce? Scrollai il capo. Vedendolo già così esaltato, dovetti fare appello al mio coraggio, anche solo per arrischiare quel muto segno di diniego. Aveva parlato camminando rapidamente su e giù per la stanza ed ora si fermò, come se all'improvviso avesse messo le radici, e mi fissò con uno sguardo duro. Io distorsi gli occhi e li posai sul fuoco, tentando di assumere e di mantenere un atteggiamento calmo e composto. Ci siamo. Ora cominciano le sorprese del carattere di Jane, disse infine con maggior calma di quanto il suo aspetto non promettesse. La matassa di seta si è dipanata fin qui abbastanza facilmente, ma lo sapevo che avrei incontrato un nodo e che si sarebbe imbrogliata. Il nodo c'è. Ora verranno le noie, le difficoltà, l'esasperazione, i guai a non finire. Per Dio, come vorrei poter spiegare una parte della forza di Sansone, spezzare l'ostacolo come fosse un filo di stoppa. Riprese a camminare, ma subito si fermò e questa volta proprio davanti a me. Jane vuole intendere ragione. Si chinò avvicinando le labbra al mio orecchio, perché se non vuole userò la violenza. La sua voce si era fatta rauca, il suo sguardo quello di un uomo in procinto di infrangere un insopportabile legame e di gettarsi a capofitto nella più sfrenata licenza. Mi accorsi che bastava un momento, un nuovo accesso di collera e non avrei più potuto dominarlo. L'attimo presente, l'attimo fuggevole, era tutto quanto avevo per controllarlo, per frenarlo. Un moto di repulsione, la fuga, la paura avrebbero deciso della mia sorte e della sua, ma non avevo paura, non ne avevo affatto. Sentivo una forza dentro di me, una sicurezza che mi sosteneva. La crisi era pericolosa, ma non priva di fascino, di quel fascino che esercita sugli indiani una corsa in canoa sulle rapide di un fiume. Presi nelle mie mani la sua mano contratta, ne apersi le dita e dissi dolcemente: Si sieda. Parlerò con lei quanto vorrà e ascolterò tutto quanto da dirmi, siano o no cose ragionevoli. Egli si sedette, ma non parlò subito. Da un pezzo lottavo con le lacrime. Mi ero sforzata in tutti i modi di trattenerle perché sapevo che non gli sarebbe piaciuto vedermi piangere. Ma ora giudicai bene di lasciarle scorrere liberamente e se il mio pianto lo turbava, tanto meglio. Così mi misi a piangere e a singhiozzare. Subito mi pregò seriamente di calmarmi ed io risposi che non potevo finché lo vedevo così fuori di sé. Ma io non sono fuori di me, Jane. Soltanto l'amo troppo e poco fa il suo pallido visino aveva un'espressione così fredda e risoluta che non ho potuto sopportarlo. Basta piangere ora, si asciughi gli occhi. La voce addolcita mi annunciava che si era calmato. Così mi calmai anch'io. Egli tentò di appoggiarmi la testa sulla spalla, ma non glielo permisi. Volle attirarmi a sé e lo respinsi. Jane, Jane, disse con accento così triste e amaro che tutti i miei nervi ne vibrarono. Non mi ama più, dunque. Era soltanto la mia posizione e l'idea di diventare mia moglie che la tentavano. Ora che per lei non posso più essere un marito, mi rifugge? Come se fossi un rospo o un mostro? Queste parole mi ferirono. Ma che cosa potevo dire o fare? Probabilmente avrei dovuto non dire né fare nulla, ma ero così torturata dal rimorso di aver offeso i suoi sentimenti che non resistetti al desiderio di spargere un po' di balsamo sulla ferita che avevo aperta. Io l'amo, dissi, più che mai, ma non devo dimostrarglielo né indulgere a questo sentimento, e questa è l'ultima volta che lo esprimo. L'ultima volta, Jane? Come? Crede di poter vivere con me? Di vedermi ogni giorno? E pur continuando ad amarmi, rimanere fredda e tenermi a distanza? No, signore, sono certa che non lo potrei, e perciò non vedo che una strada, ma se gliene parlo, lei andrà di nuovo in collera. No, parli, e se io mi infurio, lei avrà la risorsa delle lacrime. Signor Rochester, devo lasciarla. Per quanto tempo, Jane? Per pochi minuti? Quanto le basta per lisciarsi i capelli che sono un po' spettinati, o per bagnarsi il viso che le brucia? Devo lasciare Adele e Thornfield, devo dividermi da lei per sempre, devo cominciare un'esistenza nuova, tra gente strana, in un ambiente diverso. Certo, gliel'avevo già detto, non mi soffermo sulla follia di volersi dividere da me, al contrario, lei deve diventare una parte di me, quanto alla nuova vita. Sì, sta bene, lei sarà mia moglie, io non sono sposato e lei diventerà la signora Rochester di nome e di fatto. Le sarò fedele sino alla morte. La condurrò in una mia proprietà nel sud della Francia, in una villa dalle mura bianche sulla spiaggia del Mediterraneo. Là potrà trascorrere una vita felice, sicura ed innocente. Non tema che io voglia trarla in inganno e fare di lei la mia amante. Perché scrolla la testa? Jane, sia ragionevole, o in verità io perderò la testa. La voce e la mano gli tremavano, aveva le narici dilatate e gli occhi lampeggianti, eppure osai parlare. Signore, sua moglie vive! Dissi. È un fatto che lei stesso ha ammesso stamattina. Se venissi a vivere con lei come desidera, diventerei la sua amante. Chiamarmi altrimenti sarebbe un sofisma, una menzogna. Jane, non sono un uomo di carattere mite. Non lo dimentichi. Né paziente, non sono freddo né spassionato. Per pietà di me, di lei stessa, ponga le dita sul mio polso, senta come batte, stia in guardia. Si scoprì il polso e me lo offrì. Il sangue aveva abbandonato il suo volto e le sue labbra, che si erano fatte livide. Ero sgomento. Agitarlo a quel modo, con una resistenza che gli riusciva odiosa, mi sembrava crudele. Cedere non volevo. Feci ciò che fanno istintivamente gli esseri umani quando si trovano spinti all'estremo. Chiesi soccorso a qualcuno che è superiore agli uomini e le parole. Signore, aiutatemi! Mi sfuggirono involontariamente dalle labbra. Sono un pazzo, gridò ad un tratto il signor Rochester. Continuo a dirle che non sono ammogliato e non le spiego il perché. Dimentico che ella non sa nulla del carattere di quella donna, né delle circostanze che mi indussero a concludere con lei una unione infernale. Oh, sono certo, Jane, che dividerà la mia opinione quando saprà tutto quello che so io. Metta la mano nella mia, Jane, perché io veda e senta che mi avvicina e con poche parole le esporrò come stanno le cose. Vuole ascoltarmi? Sì, signore, anche per ore se vuole. Le chiedo. Soltanto pochi minuti, Jane. Ha mai sentito dire che io non ero il maggiore della mia famiglia, che avevo un fratello primogenito? Ricordo che una volta me lo disse la signora Fairfax. E ha mai saputo che mio padre era un uomo avido e avaro? Ho inteso dire anche questo. Allora Jane deve sapere che mio padre aveva deciso di mantenere unita la sua proprietà. Non sopportava l'idea di dividere i suoi beni e di lasciarmene una buona parte. Aveva stabilito che tutto dovesse andare a mio fratello Roland. Tuttavia, sopportava altrettanto poco l'idea che uno dei suoi figli fosse povero e pensava di arricchirmi, facendomi contrarre un cospicuo matrimonio. Così si diede a cercarmi una compagnia. Il signor Mason, piantatore mercante nelle Indie occidentali, era una sua antica conoscenza e mio padre sapeva che aveva un patrimonio solido ed ingente. Comunque assunse informazioni e scoprì che Mason aveva un figlio ed una figlia e che a quest'ultima, come Mason stesso gli disse, avrebbe dato una dote di 30.000 sterline. Era quanto gli bastava. Quando uscii di collegio, fui mandato alla Giamaica per sposare una ragazza che già mi era stata destinata. Mio padre non mi parlò della dote, ma mi disse che la signorina Mason era il vanto di Spanish Town per la sua bellezza, e diceva il vero. La trovai bella, infatti, di una bellezza simile a quella di Blanche Ingram, alta, bruna, maestosa. La famiglia di lei teneva al matrimonio per la mia nascita, e così pure la ragazza. Me la fecero vedere a feste e ricevimenti, vestita splendidamente, ma di rado la incontrai da sola e non mi riuscii quasi mai a parlarle a quattro occhi. Ella mi circuiva, mi lusingava, spiegando per me tutto il suo fascino e tutte le sue attrattive. Gli uomini del suo ambiente sembrava l'ammirassero e mi invidiassero. Rimasi abbagliato. I miei sensi furono stimolati, eccitati, e semplice ed inesperto com'ero, credetti di amarla. Nulla trascina un uomo a commettere le follie più insensate quanto le stupide rivalità di società, la febbre, le impazienze, l'accecamento della gioventù. I parenti di lei mi incoraggiavano, i presunti rivali mi provocavano, ella mi adescava. E così il matrimonio fu concluso prima che io avessi il tempo di riflettere. Quando penso a quell'atto non posso certo avere rispetto di me stesso. Mi sento assalire e soffocare dal disprezzo. Io non l'amavo, non la stimavo, neppure la conoscevo. Non sapevo se in lei esistesse una sola virtù e non avevo notato né modestia, né bontà, né candore, né raffinatezza nella sua mente e nei suoi modi. Eppure la sposai, imbecille, vile e cieco che ero. Avrei commesso una colpa meno grave se... Ma cerchiamo di ricordare a chi sto parlando. Non avevo mai veduto la madre della mia fidanzata e la credevo morta. Appena trascorsa la luna di miele, appresi il mio errore. Era pazza, era rinchiusa in un manicomio. Vi era anche un fratello minore, muto e completamente idiota. Il maggiore, che anche lei ha veduto e che non posso odiare pur detestando tutta la famiglia perché è capace di un po' di affetto, come dimostra il continuo interesse che porta alla sciagurata sua sorella e l'attaccamento che un tempo aveva per me. Un giorno avrà la stessa sorte degli altri perché anche lui è debole di mente. Mio padre e mio fratello Roland erano a conoscenza di tutto questo, ma pensarono solamente alle 30.000 sterline e diedero mano al complotto contro di me. Furono scoperte odiose quelle che feci, ma eccezione fatta per l'inganno cui anche lei aveva preso parte, celandomi la verità sulla sua famiglia. Non avrei mosso alcun rimprovero a mia moglie, nemmeno quando mi accorsi che la sua indole era assolutamente estranea alla mia, che i suoi gusti mi riuscivano sgradevoli, che il suo spirito era volgare, basso, limitato e incapace di lasciarsi guidare verso qualche cosa di più nobile ed elevato. Nemmeno quando capii che non avrei passato con lei una sola sera, una sola ora piacevole. Qualsiasi conversazione era impossibile tra noi, perché qualunque fosse l'argomento che sceglievo, immediatamente ricevevo da lei una risposta sgarbata o banale, perversa o imbecille. Quando capii che non avrei mai avuto una casa ordinata e tranquilla, perché nessuna persona di servizio avrebbe sopportato i continui sfoghi del suo carattere violento e irragionevole, le sue vessazioni, i suoi ordini assurdi, tirannici e contraddittori, anche allora seppi dominarmi. Schivavo le rampogne, tagliavo corto alle rimostranze, cercavo di ingoiare in segreto la delusione e il disgusto e di reprimere la profonda antipatia che mi ispirava. Jane, non voglio turbarla con particolari abominevoli, poche e crude parole basteranno ad esprimere ciò che voglio dirle. Ho vissuto 4 anni con quella donna, ma fin dal principio mi aveva messo a dura prova. Il suo temperamento maturava e si sviluppava con paurosa rapidità, i suoi vizi crescevano a dismisura ed erano così prepotenti che soltanto la crudeltà avrebbe potuto tenerli a freno, ed io non volevo essere crudele. Che intelligenza da pigmea aveva e che istinti da gigante! Che spaventosa maledizione furono per me quei suoi istinti perversi. Berta Mason, degna figlia di una madre infame, mi trascinò attraverso tutte le più ripugnanti ed avvilenti sofferenze cui può essere sottoposto un uomo unito ad una donna intemperante ed impudica. Frattanto mio fratello era morto e in capo a quei 4 anni anche mio padre morì. Così mi trovai ricco eppure immerso nella più degradante indigenza. La donna più volgare, impura e depravata che mai io abbia veduto era legata a me, chiamata dalla legge e dalla società una parte di me stesso. Non potevo liberarmi da lei con nessun procedimento legale perché i medici avevano scoperto che mia moglie era pazza, i suoi eccessi avevano prematuramente sviluppato i germi del male. Jane, il mio racconto la turba, si è fatta pallida, vuole che rimandi il resto a un altro giorno. No, signore, finisca ora, io la compiango sinceramente. Jane, di solito la compassione è un tributo mortificante e pernicioso, tanto che un uomo è giustificato se lo rifiuta e lo ricaccia tra i denti di chi glielo offre. Ma si tratta della compassione che alligna nei cuori duri ed egoisti e nasce dall'incrocio di un'ibrida insofferenza delle pene altrui con un volgare disprezzo per coloro che le hanno sopportate. Ma questa non è la sua compassione, Jane. Non è questo il sentimento che ora le si legge in viso, che le inumidisce gli occhi, che le gonfia il cuore e fa tremare la sua mano nella mia. La sua compassione, mia diletta, è la sofferente madre dell'amore. È la sua angoscia, lo spasimo che genera la divina passione. L'accetto, Jane, e ne lasci avanzare la figlia. Le mie braccia sono pronte a riceverla. Continui, signore. Che cosa fece quando scoperse che era pazza? Arrivai al limite della disperazione. Un rimasuglio di rispetto umano fu la sola cosa che intervenne tra me e l'abisso. Agli occhi del mondo ero indubbiamente coperto di vergogna, ma decisi di essere onesto di fronte a me stesso e fino all'ultimo ripudiai ogni connivenza con i suoi delitti e mi tenni lontano da quello spirito vizioso. Ma la società continuava ad associare il mio nome e la mia persona con la sua. La vedevo e l'ascoltavo ogni giorno, una parte del suo respiro. Oh, vergogna! Si mescolava all'aria che respiravo e inoltre ricordavo che un tempo ero stato suo marito. Quel ricordo mi era, come ora, indicibilmente odioso. Sapevo che finché la viveva non avrei mai potuto diventare il marito di una donna migliore di lei, e benché l'avesse 5 anni più di me, anche su questo particolare la sua famiglia e mio padre mi avevano ingannato. Era probabile che vivesse quanto me, essendo robusta di corpo quanto era inferma di mente. Così a 26 anni non avevo più speranze. Una notte fui svegliato dalle sue grida. Da quando i medici l'avevano dichiarata pazza, naturalmente era stata rinchiusa. Era un'ardente notte tropicale, di quelle che, nelle descrizioni di quei climi, spesso precedono un uragano. Incapace di dormire, mi alzai e apersi la finestra. L'aria sembrava carica di vapori di zolfo. Non riuscivo a trovare refrigerio in alcun luogo. Le zanzare entrarono a stormi dalla finestra, riempiendo la camera del loro ronzio. L'ansito del mare arrivava fino a me, sordo e minaccioso come il rombo lontano di un terremoto. Nuvole nere si addensavano sulla sua distesa. La luna scendeva nei flutti, larga e rossa come una palla di cannone infuocata, gettando un'ultima luce sanguigna sulla terra agitata dal fermento della tempesta. Ero fisicamente influenzato da quell'atmosfera e da quella scena, e alle mie orecchie continuavano a giungere le maledizioni che lanciava la pazza. Ella vi mescolava il mio nome con un accento d'odio diabolico, e che linguaggio usava? Nessuna prostituta di professione ha mai fatto sfoggio di espressioni più triviali. Benché 2 stanze mi separassero da lei, udivo ogni parola, perché le sottili pareti che usano in quelle contrade non opponevano che un debole schermo ai suoi urli di fiera. Questa vita, mi dissi, è un inferno. Nell'abisso senza fondo si deve respirare un'aria come questa e si devono udire gli stessi suoni. Ho il diritto di liberarmene se posso. Le sofferenze di un'esistenza mortale cesseranno con la fine di una vita che mi opprime l'anima. Del fuoco eterno inventato dai fanatici non ho paura, non vi può essere una condizione futura peggiore della presente. Lasciatemi spezzare quest'esistenza per ritornare a Dio, dov'è la vera casa. Così dicendo mi inginocchiai per aprire un baule che conteneva un paio di pistole cariche. Volevo uccidermi, ma quel desiderio fu di breve durata perché, non essendo pazzo, la crisi di disperazione che aveva generato il disegno e il proposito di suicidio era svanita in un secondo. Un vento fresco proveniente dall'Europa soffiava sull'oceano e le sue folate entrarono dalla finestra aperta. L'uragano scoppiò con pioggia, tuoni e fulmini e l'aria si fece leggera. Allora presi una decisione. Passeggiando sotto i gocciolanti alberi d'arancio nel mio giardino bagnato dalla pioggia, tra i melograni e gli ananassi inzuppati, mentre la fulgida aurora dei tropici s'accendeva attorno a me, così ragionai: Jane, e lei mi ascolti, perché fu la vera saggezza che mi consolò in quell'ora e mi additò la via giusta da seguire. Il dolce vento di Europa mormorava ancora tra le foglie rinfrescate e l'Atlantico ruggiva nella sua gloriosa libertà. Il mio cuore, disseccato e riarso da tanto tempo, si gonfiò udendo quella voce e si riempì di sangue vivo. Tutto il mio essere aspirava a rinascere, la mia anima bramava un sorso d'acqua pura. Sentii rivivere la speranza e vidi possibile la rigenerazione. Da un arco fiorito in fondo al mio giardino mirai il mare più azzurro del cielo. Il vecchio mondo era al di là e mi apriva chiare prospettive. Va, mi diceva la speranza, torna a vivere in Europa. Là nessuno sa che porti un nome contaminato, né quale spregevole fardello ti è legato. Puoi condurre con te la pazza in Inghilterra, confinarla con l'assistenza e le precauzioni dovute a Thornfield, e poi andartene dove vorrai e stringere i legami che ti parrà. La donna che ti ha fatto tanto soffrire, che ha macchiato il tuo nome, oltraggiato il tuo onore e sciupato la tua giovinezza, non è tua moglie, né tu sei suo marito. Provvedi a che non le manchino le cure richieste dal suo stato e avrai fatto tutto quanto Iddio e gli uomini possono pretendere da te. Fai in modo che la sua identità, i rapporti che la legano a te, cadano nell'oblio. Non hai il dovere di rivelarli ad essere vivente. Mettila in un luogo comodo e sicuro. Cela la sua degradazione nell'isolamento e lasciala. Agii precisamente come avevo ideato. Mio padre e mio fratello non avevano partecipato ad alcuno la notizia delle mie nozze, perché già nella prima lettera che avevo scritto loro dopo il matrimonio, estremamente disgustato dalle sue conseguenze e prevedendo per me, date le tare della famiglia, un orribile avvenire, li avevo scongiurati di tenere segreta la mia unione. Infatti, ben presto, la condotta di colei che mio padre mi aveva scelta per moglie divenne così scandalosa che egli si sarebbe vergognato di doverla riconoscere per nuora. Così, lungi dal desiderare che altri sapessero di quella parentela, si curò quanto me di tenerla celata. Condussi dunque in Inghilterra quel mostro, che mi rese anche il viaggio per mare faticoso e orribile. Fu un grande sollievo per me quando giungemmo a Thornfield e la vidi rinchiusa in quella stanza del terzo piano, il cui camerino interno è diventato da 10 anni il vero covo di una belva, la tana di uno spirito maligno. Non mi fu facile trovare chi le facesse al tempo stesso da infermiere e da custode, essendo necessario scegliere una persona di assoluta fiducia, poiché le crisi e le urla della pazza avrebbero inevitabilmente tradito il mio segreto. Inoltre ella aveva giorni, talvolta anche delle settimane di lucidità, e le occupava a calunniarmi. Finalmente assunsi Grace Poole, che viveva al ritiro di Grimsby. Lei e Carteri, il medico che curò Mason nella notte che fu ferito dalla sorella, sono le sole persone che io abbia messo a parte del segreto. La signora Fairfax deve aver sospettato qualche cosa, ma non può sapere nulla di preciso sulla realtà dei fatti. In complesso, Grace si è dimostrato un'ottima custode, anche se in parte a causa di un vizio del quale sembra incorreggibile e che forse è dovuto al suo incarico snervante. Più di una volta la sua vigilanza è stata elusa. La pazza è scaltra e maligna e non ha mai mancato di approfittare delle temporanee disattenzioni della sua guardiana. Una volta per nascondere il coltello con il quale aggredì suo fratello e 2 volte per impadronirsi della chiave della sua cella e poter uscire di notte. Nella prima di queste occasioni perpetrò il tentativo di bruciarmi nel letto e nella seconda fece l'allucinante apparizione in camera sua a Jane. Ringrazio la provvidenza di aver vegliato su di lei, facendo sfogare le furie della pazza sul suo velo nuziale, che forse le aveva suscitato un confuso ricordo del giorno delle sue nozze. Ma preferisco non soffermarmi su ciò che poteva accadere, quando penso che la belva, che stamane mi si è avventata contro stringendomi alla gola, ha chinato il suo viso sanguinario e tumefatto sul nido della mia colomba. Il sangue mi si gela nelle vene. E che cosa fece, signore? Domandai quando tacque. Dopo averla condotta ed alloggiata qui, dove andò? Che cosa feci, Jane? Mi trasformai in un folletto. Dove andai? Feci lunghi viaggi precipitosi e inquieti come il vento di marzo. Visitai il continente e ne traversai disordinatamente tutti i paesi. La mia idea fissa era di cercare e trovare una donna buona e intelligente che potessi amare, l'opposto della furia che avevo lasciato a Thornfield. Ma lei non poteva sposarsi, signore. Mi ero convinto di poterlo fare e volevo farlo. Non avevo intenzione di ingannare alcuno, come poi ho ingannato lei. Intendevo raccontare semplicemente la mia storia e fare apertamente le mie proposte. Mi sembrava così logico che mi si considerasse libero di amare e di essere amato, che non dubitai mai di trovare una donna disposta ad accettarmi e capace di capire il mio caso. nonostante la maledizione che mi gravava sulle spalle. Ebbene, signore, quando si atteggia inquisitrice, Jane mi fa sempre sorridere. Spalanca gli occhi come un uccello ansioso e fa ogni tanto un movimento di impazienza, come se le risposte non venissero abbastanza in fretta e volesse leggere ciò che è scritto nel cuore di chi interroga. Ma prima di continuare, mi dica che significa quel suo «Ebbene, signore». È una breve frase che lei usa spesso e che più di una volta mi ha indotto a dilungarmi in interminabili conversazioni, sebbene io stesso non saprei dirne il perché. Significa «E dopo?». Che cosa fece? Che cosa nacque da quel suo atteggiamento? Già, e che cosa vuol sapere ora? Se trovò una donna che le piacesse, se le chiese di sposarle, che cosa le rispose? Posso dirle come trovai la donna che mi piacque e come le chiesi di sposarmi, ma ciò che rispose deve essere ancora scritto nel libro del destino. Per 10 lunghi anni vagabondai per il mondo, fermandomi un po' in una capitale, un po' in un'altra. Qualche volta a Pietroburgo, più spesso a Parigi, e occasionalmente a Roma, Napoli, Firenze, provvisto di molto denaro e con il passaporto di un antico casato, potevo scegliere la società che mi conveniva. Nessun circolo mi era chiuso. Cercai la mia donna ideale tra le signore inglesi, le contesse francesi, le dame italiane, le nobili tedesche. Non riuscivo a trovarla. Qualche volta, per un fuggevole momento, credetti di aver colto uno sguardo, udito una voce, mirato una forma che annunziavano l'avverarsi del mio sogno. Ma presto sopravveniva la delusione. Lei non deve supporre che cercassi la perfezione né dello spirito né del corpo. Desideravo soltanto una donna che mi convenisse e che fosse agli antipodi della creola, ma inutilmente. In mezzo a tante donne non ne trovai una che, anche se fossi stato libero, avvertito com'ero dei rischi, degli orrori, degli avvilimenti di una unione sbagliata, avrei chiesto in moglie. Le delusioni mi resero scettico. Presi a condurre una vita sregolata, ma non libertina. Odiavo il libertinaggio e l'odio ancora. Quello era un attributo della mia messalina indiana, e il profondo disgusto che lei e il suo vizio mi avevano sempre ispirato mi teneva a freno, persino nei piaceri. Qualsiasi godimento possibile di finire in gozzoviglia mi dava l'impressione di avvicinarmi a lei, e perciò lo schivavo. Tuttavia, non potevo vivere solo, così cercai la compagnia di qualche amante. La prima che scelsi fu Céline Varenne, un altro di quei passi che inducono un uomo a disprezzarsi quando li ricorda. Lei sa già chi era e come finì la nostra relazione. A Céline seguirono altre due, Giacinta, un'italiana, e Clara, una tedesca, entrambe ritenute bellissime. Ma in capo a poche settimane, che cosa significava più per me la loro bellezza? Giacinta era violenta e immorale. Mi stancai di lei in 3 mesi. Clara era onesta e mite, ma pesante, fredda e sciocca, proprio il tipo che meno si confaceva ai miei gusti. Fui ben contento di darle una somma sufficiente perché aprisse un negozio e si mettesse sulla buona via e di liberarmi così decentemente di lei. Ma Jane, vedo sul suo viso che non si sta facendo di me un'opinione molto favorevole in questo momento. Mi ritiene uno sciagurato, privo di senso morale e di buoni sentimenti. Non è vero? Infatti, signore, non mi piace più come qualche volta mi è piaciuto. Non le sembrava di far male vivendo in quel modo, ora con un amante, ora con un'altra. Ne parla come fosse una cosa naturale. Lo era per me, ma non mi piaceva. Era uno spregevole genere di vita e non vorrei mai più ricominciarla. Prendersi un amante non è meno abietto che comprare una schiava. Tutte e due, spesso per indole e sempre per posizione, sono inferiori a noi, e vivere in intimità con gli inferiori è degradante. Oggi odio anche il solo ricordo del tempo passato con Céline, Giacinta e Clara. Sentii che quelle parole erano sincere e ne trassi la convinzione che se mai avessi dimenticato il rispetto che mi dovevo e tutti i principi che mi erano stati inculcati, fino al punto di diventare anch'io, cedendo alla tentazione o sotto un qualsiasi pretesto e con tutte le attenuanti del caso, la sua amante, un giorno egli mi avrebbe considerata con lo stesso disprezzo che ora il ricordo di quelle disgraziate suscitava in lui. Non espressi questa convinzione. Mi bastava di averla e me la stampai nel cuore affinché vi rimanesse per essermi di aiuto nel momento della prova. E adesso, Jane, perché non dice «Ebbene, signore?» Non ho ancora finito. Lei ha un aspetto grave, vedo che mi disapprova. Ma mi lasci venire al punto. Lo scorso gennaio, stanco di amanti e libero, con l'animo indurito e amareggiato da una vita inutile, vagabonda e solitaria, corroso dalla delusione, mal disposto verso gli uomini e specie verso le donne, poiché cominciavo a credere che le donne intelligenti, fedeli ed amorose fossero un mero sogno, chiamato dai miei affari feci ritorno in Inghilterra. In una gelida serata d'inverno giunsi sul mio cavallo in vista di Thornfield, luogo aburrito dove non mi aspettavo né pace né piacere. Su una barriera di pietra lungo la strada di Hay, scorsi tranquillamente seduta una figurina. Le passai accanto con la stessa indifferenza che se fosse stata il salice che svettava di fronte a lei dall'altra parte della via. Non ebbi alcun presentimento di ciò che doveva diventare per me. Nessuna voce interiore mi ammonì che l'arbitra della mia vita, il mio buon genio, nella felicità e nella disgrazia, mi attendeva. Là, sotto quelle spoglie modeste, non me ne resi conto neppure quando, dopo la caduta di Mesrour, mi si avvicinò e mi offerse gravemente il suo aiuto. Era una creatura sottile, giovanissima. Sembrava uno scricciolo che, posatosi ai miei piedi, si offrisse di trasportarmi sulle sue ali minuscole. Fui scortese, ma la figurina non volle andarsene. Mi rimase accanto con singolare perseveranza, guardandomi e parlando con una certa autorità. Avevo bisogno di aiuto, disse, e lei me lo avrebbe dato. E infatti così fu. Quando mi appoggiai a quella fragile spalla, qualcosa di nuovo, come una linfa, un sentimento fresco si insinuò nelle mie vene. Fu bene che apprendessi che quella piccola silfide doveva tornare a me, che apparteneva alla mia casa, altrimenti non l'avrei sentita sfuggirmi di sotto la mano e svanire oltre la siepe senza uno strano rimpianto. La sentii tornare a casa quella sera. Jane, sebbene certo lei non supponesse che io pensavo a lei e spiavo il suo ritorno, il giorno dopo rimasi ad osservarla non visto mentre giocava con Adele nella galleria. Ricordo che quel giorno nevicava e non potevano uscire. Io ero in camera mia con la porta socchiusa e potevo vedere ed ascoltare. Per un poco Adele occupò la sua attenzione, ma io immaginai che i suoi pensieri fossero altrove, anche se era così paziente con la bambina e le parlava e la faceva divertire. Quando infine Adele si allontanò, lei, mia piccola Jane, si immerse in profonde fantasticherie e prese a passeggiare lentamente su e giù per la galleria. Di tanto in tanto, passando davanti a una finestra, guardava la neve che scendeva fitta, prestava orecchio all'ululare del vento, poi riprendeva a camminare e a fantasticare. Credo che quel giorno le sue visioni non fossero tristi. La luce che ogni tanto le brillava negli occhi e una specie di lieta eccitazione sul suo volto rivelavano che le sue meditazioni non erano amare o malinconiche. Anzi, il suo sguardo era illuminato dai dolci sogni della gioventù, che segue su ali compiacenti il volto della speranza. Su, fino a un cielo ideale. La voce della signora Fairfax, che parlava nel vestibolo con una delle serve, la svegliò, come sorrise curiosamente tra sé e sé, Jane. Vi era molto buon senso e molte finezze in quel sorriso, che sembrava burlarsi delle sue fantasie e dire: «Ah, le mie visioni sono molto belle, ma non devo dimenticare che sono solo visioni. La mia fantasia vede un cielo rosato e un Eden fiorito e verdeggiante, ma so perfettamente che in realtà mi si apre davanti un cammino scabroso e che mi aspettano buie tempeste». Allora, corse giù dalla scala e chiese alla signora Fairfax di darle qualche cosa da fare, come regolare i conti della settimana, credo, o un'altra occupazione del genere, e mi irritai con lei, Jane, che si era sottratta alla mia vista. Attesi la sera con impazienza, perché allora avrei potuto chiamarla presso di me. Sospettavo in lei un carattere insolito e assolutamente nuovo e volevo studiarlo per giungere a conoscerlo. Lei si presentò con fare timido e al tempo stesso indipendente. Era vestita con semplicità, pressappoco come ora. La feci parlare e in breve mi accorsi che era piena di contrasti. Il suo aspetto e i suoi modi erano controllati da una severa educazione. Aveva spesso l'aria diffidente, ma tutto in lei rivelava un'indole naturalmente raffinata, e soltanto il fatto di non essere avvezza alla compagnia dei propri simili la rendeva timorosa di commettere qualche errore o di dire qualche sciocchezza, ma appena lei si rivolgeva la parola, alzava sull'interlocutore uno sguardo acuto, aperto e vivace. Vi era forza e penetrazione nei suoi occhi, e serrata da presso da domande precise, trovava subito la risposta giusta. Mi parve che s'abituasse presto a me. Credo che sentisse l'esistenza di una simpatia tra lei e il suo burbero e torvo padrone, perché mi accorsi con stupore che dopo poco tempo si sentiva piacevolmente a suo agio in mia compagnia. Per scontrosa e intrattabile che fossi, Lei non mostrava sorpresa, né timore, né disagio, né pena di fronte ai miei malumori. Mi osservava e di tanto in tanto mi rivolgeva un sorriso, con una grazia così semplice e sagace che non saprei descrivere. Io ero al tempo stesso contento e stimolato da quello che vedevo. Mi piaceva e desideravo vedere di più, tuttavia per molto tempo la trattai con distacco e cercai raramente la sua compagnia. Ero un epicureo dell'intelletto e volevo prolungare il piacere della scoperta di questa nuova e piccante conoscenza. Inoltre per un po' fui assillato dal timore di vedere appassire quel fiore se lo avessi maneggiato liberamente. Avevo paura di veder svanire il dolce incanto della sua freschezza. Non sapevo allora che non si trattava di una fioritura effimera, bensì della radiosa immagine di un fiore intagliato in una gemma indistruttibile. Poi volevo anche vedere se lei mi avrebbe cercato il giorno che l'avessi evitata, ma non lo fece. Se ne rimase in sala di studio, tranquilla come la scrivania o il cavalletto, e se per caso la incontravo, passava oltre in fretta con un cenno di saluto a malapena rispettoso, tanto era breve. La sua espressione abituale in quei giorni, Jane, era pensierosa, non abbattuta perché non soffriva, ma non gaia perché aveva poche speranze e nessuna gioia. Mi chiedevo che cosa pensasse di me o se mi pensava e decisi di scoprirlo. Mi riavvicinai a lei e quando conversavamo vi era un non so che di contento nel suo sguardo e di gaio nei suoi modi, che la rivelavano di cuore socievole. Era la solitudine dell'aula di studio, il tedio della sua vita che li malinconivano. Mi concessi il piacere d'essere cortese con lei. La cortesia la commosse e l'espressione del suo viso si rasserenò e si addolcì. La sua voce si ravvivò. Mi piaceva sentire pronunciare il mio nome dalle sue labbra con accento grato e felice. In quel periodo ogni incontro casuale con lei, Jane, mi rallegrava perché notavo una curiosa esitazione nei suoi modi. Mi guardava con un certo turbamento, con l'ombra di un dubbio, chiedendosi quale sarebbe stato il mio capriccio, se avrei rappresentato la parte del padrone severo o dell'amico benevolo. Ma ormai lei mi era già troppo cara per divertirmi a simular spesso la parte del padrone. Quando le stendevo cordialmente la mano, il suo giovane viso pensieroso si illuminava tutto di una tale gioia che facevo fatica a trattenermi dallo stringerla senza indugio sul mio petto. Non parli più di quei giorni, signore, lo interruppi asciugandomi furtivamente le lagrime, poiché il suo linguaggio era una tortura per me, sapendo ciò che dovevo fare e al più presto. Tutti quei ricordi, quelle rivelazioni sul suo stato d'animo non facevano che rendere più difficile il mio compito. No, Jane, acconsentì egli. Che bisogno c'è di parlare del passato quando il presente è tanto più sicuro e il futuro tanto più bello? Tremai nell'udirlo esprimere quell'illusione. Capisci ora come stanno le cose, non è vero? Continuò. Dopo una giovinezza e una maturità trascorse in parte in mezzo a inesprimibili sofferenze, e in parte nella più desolata solitudine, io ho trovato per la prima volta colei che posso veramente amare. Ho trovato lei. Lei è la mia simpatia, la miglior parte di me stesso, il mio angelo custode, e io le sono unito da un legame fortissimo. La credo buona, intelligente, attraente. Il mio cuore ha concepito una passione grave e fervida e mi spinge verso di lei. La tira al centro e alla sorgente della mia esistenza. Fa gravitare la mia vita attorno a lei e, ardendo di una fiamma pura e possente, fonde lei e me in un essere solo. È perché sentivo e sapevo tutto questo che decisi di sposarla. Dirmi che sono già ammogliato è una vana canzonatura. Lei sa ora che io ho avuto per moglie soltanto un demonio ripugnante. Ho sbagliato a tentare di ingannarla, ma temevo l'ostinazione del suo carattere, temevo i pregiudizi che le sono stati inculcati fin dall'infanzia e volevo fosse sicuramente mia prima di arrischiarmi a farle certe confidenze. Sono stato codardo, avrei dovuto invece fare appello alla sua nobiltà e magnanimità come faccio ora. Svelarle tutta la mia vita di dolori, descriverle la mia fame, la mia sete di un'esistenza più degna e più elevata, dimostrarle non la mia risoluzione, la parola è troppo debole, ma il mio irresistibile bisogno di amare veramente e fedelmente qualcuno che mi ricambiasse di pari amore. Poi le avrei chiesto di accettare la mia promessa di fedeltà e di darmi la sua. Jane, me la conceda ora. Una pausa di silenzio. Perché tace, Jane? Subivo un'ardua prova, una mano d'acciaio mi torceva tutta, momento terribile, pieno di lotta, di tenebra e di fuoco. Nessun essere umano poteva desiderare d'essere amato più e meglio di come io ero amata. Colui che mi amava tanto, io lo adoravo, ma dovevo rinunziare al mio amore e al mio idolo. Una sola parola compendiava il mio intollerabile dovere: partire. Jane, capisce ciò che le chiedo? Soltanto questa promessa, sarò sua, signor Rochester. Signor Rochester, non voglio essere sua. Un altro lungo silenzio. Jane, riprese egli con una tenerezza che mi spezzò il cuore e mi agghiacciò, perché in quella voce soffocata sentivo l'ansito di un leone che si erge minaccioso. Jane, intende forse andarsene nel mondo per la sua strada e lasciare che io me ne vada per la mia? Sì. Jane, ripeté chinandosi su di me ed abbracciandomi, è ancora decisa? Sì. Ed ora, insistette baciandomi dolcemente sulla fronte e sulle guance. Sì, esclamai, svincolandomi rapidamente dalla sua stretta. Oh, Jane, lei è crudele e anche cattiva. Non commetterebbe alcuna colpa amandomi. La commetterei se l'ubbidissi. Un'espressione selvaggia gli contrasse i lineamenti e lampeggiò sotto le sue sopracciglia. Si alzò, ma contenendosi ancora, appoggiai la mano sulla spalliera della sedia per sorreggermi. Tremavo, avevo paura, ma ero risoluta. Un momento, Jane, getti uno sguardo alla mia orribile esistenza quando sarà partita. Con lei se ne andrà ogni bene, che cosa mi rimarrà? Non ho per moglie che la pazza rinchiusa là sopra, e tanto varrebbe che lei mi ritenesse legato ad un cadavere sepolto nel cimitero. Che cosa farò, Jane? Dove mi volgerò per trovare una compagna e un poco di speranza? Faccia come me, fidi in Dio e in se stesso, creda nel cielo e speri che ci sia concesso di riunirci lassù. Dunque non vuol cedere? No. E mi condanna a vivere infelice, a morire disperato? Disse alzando la voce. La consiglio di vivere senza colpe e le auguro di morire tranquillo. Dunque mi strappa l'amore e l'innocenza, mi spinge alla dissolutezza, togliendomi la passione, come occupazione mi offre il vizio. Signor Rochester, io non la condanno a questa sorte, come non vi condanno me stessa. Siamo nati per lottare e sopportare tanto lei che io. Lo faccia. Mi avrà dimenticata prima che io la dimentichi. Lei fa di me un bugiardo parlando così. Offende il mio onore. Ho dichiarato che non potrò cambiare. Lei mi dice in viso che cambierò presto. Il suo contegno prova quanto sia errato il suo giudizio e perversa la sua mente. È dunque meglio spingere una creatura alla disperazione che trasgredire ad una legge umana, anche quando la trasgressione non nuoce ad alcuno, perché lei non ha né parenti né amici che possa temere di offendere vivendo con me. Era vero, e mentre parlava, la mia stessa coscienza e la ragione mi tradirono, volgendosi contro di me ed accusandomi di delitto se gli resistevo. La loro voce non era meno alta di quella del sentimento che gridava imperiosamente: Oh, cedi! Pensa al suo dolore, pensa al pericolo in cui lo metti, pensa al suo stato quando lo avrai lasciato solo, ricorda com'è impetuoso e violento il suo carattere, rifletti alle conseguenze che può avere la disperazione, calmalo, salvalo, amalo, digli che lo ami e che sarai sua. Chi si cura di te al mondo o chi può soffrire per quello che farai? Ma la risposta ritornava sempre uguale. Io mi curo di me stessa. Più sono sola, senza amici, senza appoggio, più devo rispettarmi. Voglio attenermi alla legge dettata da Dio e sancita dall'uomo. Voglio osservare i principi ricevuti quando ero sana e non pazza come ora. Le leggi e i principi non ci sono stati dati per i momenti in cui nulla ci tenta, bensì per i momenti come questi in cui il corpo e l'anima si ribellano contro la loro severità. Rigorosi sono e inviolati debbono essere. Se li infrangessi per mia personale convenienza, quale sarebbe il loro valore? Hanno un valore, l'ho sempre creduto, e se non posso crederlo ora è perché sono pazza, affatto pazza. Nelle vene mi scorre il fuoco, il cuore mi batte così forte che non potrei contarne i colpi. Idee preconcette, risoluzioni prese in passato sono solo il terreno solido del quale dispongo in quest'ora, e là poso il mio piede. Lo feci, infatti. E il signor Rochester, osservandomi in viso, se ne accorse. La sua collera divampò con furie estreme per un istante, vi cedette, senza pensare alle conseguenze, attraversò la stanza, mi afferrò per un braccio e mi strinse alla vita, parve divorarmi con lo sguardo infuocato. Fisicamente mi sentivo inerme, come una stoppia esposta alla vampa di una fornace. Mentalmente ero ancora padrona di me stessa e perciò mi sentivo sicura. L'anima, per fortuna, ha un interprete, spesso inconsapevole ma sempre fedele. Gli occhi. Li alzai su di lui. e guardando il suo volto alterato involontariamente sospirai. La sua stretta era dolorosa e le mie forze già stremate si esaurivano. «Mai!» esclamò egli serrando i denti. «Mai una creatura è stata al tempo stesso così fragile!» È indomita, è come un giunco tra le mie mani e mi scosse con forza. Potrei piegarla con due dita. Che cosa otterrei quando l'avessi piegata, stroncata, schiacciata? Guardate questi occhi. Guardate lo spirito risoluto, libero e selvaggio che vi si affaccia e mi sfida più che con coraggio, con la certezza del trionfo. Qualunque cosa faccia del suo involucro, non potrò impadronirmi di questa bella e selvaggia creatura. Se spezzo, se infrango la fragile prigione, il mio oltraggio non farà che liberare il prigioniero. Avrò conquistato la dimora, ma l'abitante fuggirebbe verso il cielo prima che io potessi chiamarmi proprietario della sua casa d'argilla. E sei tu, spirito, con la tua volontà e la tua energia, la tua virtù e la tua purezza che io voglio, non soltanto la tua spoglia delicata. Se tu lo volessi, verresti da te con lieve volo a cercare rifugio sul mio cuore, ma se ti afferrassi contro la tua volontà, ti sottrarresti alla stretta come un'essenza, svaniresti ancora prima che io avessi respirato la tua fragranza. Oh, vieni, Jane, vieni! Nel dir così mi lasciò libera, accontentandosi di guardarmi, e mi fu più difficile resistere allo sguardo che alla stretta frenetica, ma soccombere ora sarebbe stato insensato. Avevo sfidato e tenuto testa alla sua collera, adesso dovevo eludere il suo dolore. Mi avvicinai alla porta. «Va via, Jane? Vado via, signore. Mi lascia?» «Sì. Non tornerà? Non sarà il mio conforto, la mia salvezza? Il mio amore profondo, il mio grande dolore, le mie suppliche ardenti non sono nulla per lei?» Quale inesprimibile sofferenza era nella sua voce. Com'era duro dover ripetere fermamente «Vado!» «Jane! Signor Rochester! Vada allora, lo consento, ma ricordi che mi lascia nel dolore. Salga in camera sua, rifletta tutto quello che ho detto, pensi alla mia angoscia, pensi a me!» Si volse e si gettò sul divano, nascondendo il viso nei cuscini. «Oh, Jane! Mia speranza, mio amore, mia vita!» Gli sfuggì dolorosamente dalle labbra con un profondo singhiozzo. Avevo già raggiunto la porta, ma lettrice tornai sui miei passi. Tornai risolutamente come mi ero ritirata. Mi inginocchiai accanto a lui, gli sollevai il viso dai cuscini. Lo baciai sulla guancia e gli lisciai i capelli con la mano. «Iddio la benedica, mio caro padrone», dissi. «Iddio la protegga dal male e dal peccato, la diriga, la sollevi, la ricompensi per tutta la bontà che mi ha dimostrato. L'amore della piccola Jane sarebbe stata la migliore ricompensa», rispose. «Senza di esso il mio cuore è affranto. Ma Jane mi darà il suo amore, sì, e nobilmente, generosamente». Il sangue gli affluì al viso, gli occhi gli lampeggiarono ed egli balzò in piedi, stese le braccia, ma sfuggì alla stretta e lasciai subito la stanza. «Addio!» gridò il mio cuore mentre mi allontanavo, e la disperazione aggiunse: «Addio per sempre!» Quella notte non credevo di dormire, ma il sonno mi colse non appena mi fui coricata. Fui trasportata in sogno in mezzo a scene della mia fanciullezza. Mi sembrava di trovarmi nella camera rossa di Gateshead, in una notte buia e con la mente assalita da strane paure. La luce che tanti anni prima mi aveva fatta cadere in terra svenuta riapparve nella mia visione e, lambendo le pareti, salì tremolando fino al centro del soffitto in ombra. Alzai il capo per guardare e mi parve che il soffitto si dissolvesse in una nube alta e sfumata, soffusa del chiarore rossastro che la luna diffonde sui vapori che la velano quando sta per uscirne. Aspettavo che ne uscisse con una strana ansia, come se una parola fatta le dovesse essere scritta sul suo disco. Ne sbucò fuori, infatti, come mai la luna irrompe dalle nubi. Prima una mano apparve tra i vapori scuri e li spazzò via, poi non la luna, ma una bianca forma umana brillò nell'azzurro, chinando verso terra una nobile fronte. Quella forma mi fissò a lungo e infine parlò al mio spirito. La voce proveniva da una distanza incommensurabile, eppure la sentii vicina e mi sussurrò nel cuore: «Figlia mia, fuggi la tentazione!» Sì, madre, risposi, e così pure dissi quando mi svegliai dal sogno. Era ancora buio, ma le notti di luglio sono brevi. L'alba comincia poco dopo la mezzanotte. Non può essere troppo presto per accingermi al compito che mi sono prefissa, mi dissi. Così mi alzai, ero vestita perché non mi ero tolta altro che le scarpe. Sapevo dove trovare nei miei cassetti un po' di biancheria, un medaglione, un anello. Cercando questi oggetti, le mie dita incontrarono il filo di perle che il signor Rochester mi aveva costretta ad accettare pochi giorni prima. Lasciai le perle dove stavano. Non erano mie, appartenevano alla sposa immaginaria dileguatasi nell'aria. Raccolsi le altre cose in un involto e mi misi in tasca la borsa che conteneva 20 scellini, tutto quanto possedevo. Mi legai sotto il mento i nastri del cappello di paglia, mi avvolsi nello scialle, presi l'involto e le scarpe che non avevo infilato per non fare rumore ed uscii con cautela dalla stanza. Addio, buona signora Fairfax, sussurrai, passando in punta di piedi davanti alla sua porta. Addio, mia cara Adele, dissi gettando un'occhiata verso la sua stanzetta. Inutile pensare di entrare un momento ad abbracciarla, dovevo ingannare un orecchio molto fine ed ero quasi certa che quell'orecchio fosse teso in ascolto. Avrei voluto oltrepassare senza fermarmi la camera del signor Rochester, ma davanti a quella soglia il mio cuore per un istante cessò di battere. Il mio piede fu costretto a sostare. Il sonno non regnava là dentro. Colui che vi abitava stava camminando senza posa, in su e in giù, e lo udii ripetutamente sospirare. Vi sarebbe stato il paradiso, un temporaneo paradiso per me in quella stanza se lo avessi voluto. Non avevo che da entrare e dire: Signor Rochester, l'amo e voglio vivere con lei fino alla morte. E una fonte di delizia mi sarebbe sgorgata dalle labbra. Pensai a questo. Quel buon padrone che ora non riusciva a prender sonno, aspettava il giorno con impazienza. Non appena mattina mi avrebbe mandata a chiamare ed io non sarei più stata là. Mi avrebbe cercata ma invano, si sarebbe sentito abbandonato, avrebbe creduto respinto il suo amore, avrebbe sofferto forse fino alla disperazione. Pensai anche questo. La mia mano si allungò verso la maniglia, ma la ritrassi. E proseguii. Scesi le scale in preda a un cupo dolore, sapevo ciò che dovevo fare e lo feci macchinalmente. Cercai in cucina la chiave della porta laterale, cercai anche una boccetta d'olio ed una penna ed unsi la chiave e la serratura. Presi un po' d'acqua e un po' di pane, perché forse avrei dovuto camminare a lungo e volevo che le forze già così scosse non mi abbandonassero. Feci tutto ciò senza il minimo rumore, apersi la porta, uscii, la rinchiusi piano. Fuori albeggiava. I grandi cancelli erano sprangati, ma un cancelletto al lato era chiuso soltanto col saliscendi. Uscii di lì, poi lo richiusi e mi trovai fuori da Thornfield. A 1 miglio di distanza, oltre i campi, vi era una strada che correva in direzione opposta a quella di Millcote, una strada che non avevo mai percorso, ma l'avevo spesso notata, chiedendomi dove potesse condurre, e là volsi i miei passi. Ora dovevo bandire ogni riflessione, non dovevo guardare né dietro né davanti a me, nemmeno un pensiero dovevo concedere né al passato né all'avvenire. Il primo era una pagina così divinamente dolce, così mortalmente triste, che leggerne anche solo una riga avrebbe dissolto il mio coraggio e fiaccato la mia energia. Il secondo era un vuoto pauroso, forse come era apparso il mondo dopo che il diluvio l'aveva devastato. Costeggiai campi, prati e sentieri fino al sorgere del sole. Credo fosse una bella mattina d'estate e ricordo che le mie scarpe che avevo infilato non appena uscita di casa furono presto bagnate di rugiada, ma non guardavo né il sole che sorgeva, né il cielo ridente, né la natura che si destava. Colui che viene condotto alla ghigliottina attraverso un bel paesaggio non pensa ai fiori che sbocciano sulla sua via, ma al ceppo e all'ascia, allo strazio del suo corpo e del suo sangue, all'ultima atroce smorfia della testa recisa. Ed io pensavo, rabbrividendo, alla mia triste fuga, al mio errare senza meta, e con quale strazio a ciò che avevo lasciato. Non potevo impedirmelo. Ora pensavo a lui, che nella sua stanza attendeva il levare del sole, sperando che tra breve lo raggiungessi per dirgli che sarei rimasta e sarei stata sua. Con tutta me stessa desideravo appartenergli, anelavo a ritornare. Non era ancora troppo tardi, avrei fatto in tempo a risparmiargli l'amarezza della mia scomparsa. Ero certa che la mia fuga non era ancora stata scoperta. Potevo ritornare ed essere il suo conforto ed il suo orgoglio, la sua redentrice dal dolore, forse dalla rovina. Oh, la paura che gli si perdesse mi tormentava assai più del mio destino stesso. Era come una freccia confitta nel mio cuore, allorché i ricordi la configgevano più addentro. Gli uccelli cominciavano a cantare tra gli alberi e i cespugli. Gli uccelli sono fedeli nei loro affetti, sono l'emblema dell'amore. Ed io? Che cos'ero? Con tutte le pene del mio cuore e i miei sforzi disperati per tenere fede ai miei principi, mi giudicavo odiosa, non trovavo sollievo nell'approvazione della coscienza e nemmeno nel rispetto che avevo serbato a me stessa. Avevo ingiuriato, ferito, abbandonato il mio padrone, ero detestabile ai miei occhi stessi, eppure non potevo voltarmi indietro né ritornare sui miei passi. E Dio deve avermi aiutata ad andare avanti, perché quanto alla mia volontà e alla mia coscienza il dolore aveva calpestata l'una e soffocata l'altra. Piangevo dirottamente, mentre percorrevo la strada solitaria in fretta, sempre più in fretta, come in preda al delirio. Ad un tratto, una debolezza che nasceva dall'interno mi colse, si estese alle membra e caddi. Giacqui per terra qualche tempo, premendo il viso sull'erba bagnata. Temevo, forse speravo di morire lì, ma presto mi ripresi. Mi mossi prima sulle mani e sulle ginocchia, poi fui di nuovo in piedi, più che mai ansiosa e risoluta a raggiungere la via maestra. Quando vi giunsi, fui costretta a sedermi all'ombra di una siepe. Mentre mi riposavo, udii un rumore di ruote e vidi una carrozza avvicinarsi. Mi alzai e feci cenno con la mano. La carrozza si fermò. Chiesi al cocchiere dove fosse diretto ed egli mi disse il nome di un luogo lontano dove ero sicura che il signor Rochester non aveva conoscenze. Gli chiesi per quale somma mi ci avrebbe condotta. 30 scellini, disse. Risposi che ne avevo soltanto 20. Beh, li avrebbe fatti bastare. Mi permise anche di sedere all'interno, visto che il veicolo era vuoto. Così salii. Lo sportello fu chiuso e la carrozza ripartì. Cara lettrice, possa tu non provare mai quello che io ho provato. Possano i tuoi occhi non versare mai lacrime amare, cocenti e tormentose come quelle che versarono i miei. Possa tu non implorare mai il cielo con preghiere disperate e desolate come quelle che in un'ora tanto crudele uscirono dalle mie labbra. Possa tu non temere mai, come io temevo, di essere uno strumento di perdizione per chi maggiormente ami sulla terra.